24. Storie di star. Il 2 giugno del 1981, a soli 30 anni, muore Rino Gaetano, una delle voci più nuove e originali della musica italiana degli anni 70. Un cantante estroso che in anni difficili ha conquistato i giovani con i suoi testi eccentrici e surreali. Ma quello di Rino Gaetano è un successo che non accenna a diminuire. Di continuo tornano nei negozi le raccolte dei suoi brani, le sue canzoni hanno dato titolo a film e spettacoli televisivi. Molti artisti importanti hanno rielaborato i suoi pezzi. Una riscoperta continua, cominciata all'inizio degli anni 2000 e mai finita. Nel 2007 la RAI ha dedicato a Rino Gaetano una fiction di grande successo. In quello stesso anno, al Festival di Sanremo, i riflettori ancora una volta si sono accesi su questo cantautore mai dimenticato. Sul palco dell'Ariston sono risuonate le note di una sua canzone inedita. Ad interpretarla, Paolo Rossi. Mi ha chiamato Mauro Pagani, dice c'è questo pezzo inedito. Tra l'altro va detto anche incompiuto. La prima serata mi ha portato un'emozione che dopo 20 e più anni di carriera io raramente avevo provato. In Italia ci sta il mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole. Ma in realtà nella storia di Rino Gaetano quello proposto da Paolo Rossi è in un certo senso un ritorno a Sanremo. È infatti proprio il Festival della Canzone che quasi 30 anni prima lo fa conoscere al grande pubblico. Il Festival di Sanremo del 78, così la sua fidanzata Amelia Conte. Era un po' in dubbio, non era tanto convinto di voler far Sanremo. A Sanremo Rino dovrà cantare Gianna. Vorrebbe invece presentare un altro suo brano, Non te regge più. Gianna in realtà è un brano che lui detesta. Poi si lascia convincere dal suo amico del cuore Bruno Franceschelli. Abbassare! Non te regge più. Abbassare! No, ridere. Quella non è una canzone da Sanremo, è scritta da poco, poi... Vai con Gianna. Gianna. Lui la odiava, diceva che somigliava a Berta Filava. Gianna è il titolo di un'altra canzone che ha passato il turno molto brillantemente ed è quella cantata da Rino Gaetano. Mi ricordo che disse, però ci vado come dico io. Rino si presenta sul palco dell'Ariston da clown. Ma a casa Gaetano la commozione nel vedere Rino nel tempio della canzone italiana è comunque intensa. Così Anna Gaetano, la sorella di Rino. Mia madre e mio padre, quando vedevano Rino in televisione che si esibiva, c'erano sempre gli occhi lucidi, si emozionavano tantissimo perché per loro era una cosa grandissima. Gianna aveva un coccodrillo, è un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. A quel festival Rino Gaetano conquista il terzo posto. La prima telefonata è per la sua fidanzata Amelia Conte. Proprio subito dopo mi telefonò per dirmi che aveva vinto, io ero sveglia ancora, così. Ma io lo sapevo, l'avevo seguito. Poi squilla il telefono di Bruno Franceschelli. E mi arriva la telefonata da Sanremo. Bruno. E io gli ho detto una parolaccia perché, per Dio, vedi che Bruno non ti dà mai consigli cattivi. Bruno, parto subito. Poi, ma che parti subito? Insomma, il giorno dopo è venuto, baci e abbracci. È stata una tappa molto importante per la sua carriera. È servito molto. Avevamo fatto una scommessa. Che io ho vinto, che non pagavo più al ristorante e le 500.000 copie sono partite subito. È proprio Gianna la canzone che Rino Gaetano non voleva portare a Sanremo perché lui stesso la considerava troppo facile, ottiene un successo imprevisto. Da quel momento Rino Gaetano entra nell'Olimpo della musica leggera italiana, ci arriva subito da protagonista, ma la sua storia comincia da una lontana provincia del sud, a Crotone, in Calabria, dove Rino Gaetano nasce il 29 ottobre del 1950, così la sorella Anna. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi. Noi siamo originari di Crotone. Mia madre è nata in un paese vicino a Crotone, mio padre in un altro paese, però mia nonna e mio nonno si erano trasferiti a Crotone. Praticamente eravamo il nonno, la nonna e mia zia Maria, poi Rino, mio padre, mia madre e io. Eravamo 8 persone dentro questo, diciamo, pezzo di magazzino diviso. Oggi è un ristorante. E vivevamo là praticamente. Mio padre lavorava al forno, mia madre invece all'epoca ancora si rammagliavano le calze che portiamo noi donne. Rino praticamente era un bambino molto molto, diciamo, vivace, molto intuitivo. Sarà senz'altro un altro come me. Eravamo molto affezionati alla nonna, la consideravamo come una prima madre. Capito? Sì, Rino era molto affezionato a sua nonna. Quando Rino fece la canzone Marianna, I Love You Marianna, naturalmente l'ha dedicata alla nonna, è ovvio. I love you Marianna, I love you Marianna. Ci siamo trasferiti nel 60. Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato. Non ha mai pagato per... Io e mia madre venimmo a Roma da soli. Mio padre e mio fratello vennero verso luglio del 60. E Rino finì, diciamo, la quinta qui a Roma. E poi mia madre e mio padre, dato che mio padre, come al solito, insomma, sempre cardiopatico, malaticcio, così, avevano poco tempo da dedicare a Rino e lo mandarono in collegio a Narni, vicino Terni. Fratello è figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone. Rino in collegio matura un senso di solitudine ed estraneità che poi diventa istrionismo. E quando arriva sugli schermi Rai, assume spesso un atteggiamento canzonatorio, come nel 1976, quando si presenta alla trasmissione televisiva Adesso Musica, accompagnato da un piccolo cane. Adesso però mi devi parlare di questa meravigliosa cagnetta, questa cuocherino. Dico, a parte che ti dà la possibilità di, te l'ho detto, di intervistare due cani anziché uno. E penso che niente esprime proprio il concetto di emarginato, di escluso, che è appunto questo mio fratello figlio unico, meglio di un cane. Il discorso in fondo è sui poveri cani che siamo tutti quanti noi, abbastanza avulsi proprio dall'incontro umano e abbastanza soli. Praticamente siamo abbastanza messi da parte un po' uno con l'altro. Berta Filava io la prendo a pretesto, cioè è la capostipite un po' di tutte le storie che si raccontano, sai, quando Berta Filava, un re, ecco, queste cose qui. Ecco, partendo da questa Berta Filava, io cerco di dissacrare un po' qualcos'altro. Dopo che Rina ha finito questi studi, no, e aveva, diciamo, questa cosa di ragioniere, si è adattato, diciamo, a fare un po' di tutto. Ha lavorato dentro una libreria, ha lavorato dentro un bar. Gli trovarono, diciamo, da lavorare in banca. Però all'epoca non era come adesso che, diciamo, uno veste così. Io li vedo in banca, vestono normale, come noi. Invece all'epoca era rigoroso mettersi cravatta e giacca e camicia e lui odiava queste cose. Fu un conflitto con mio padre perché lui piaceva cantare però ancora non riusciva a esplodere. Allora mio padre una sera lo buttò fuori da casa, lo fece ritornare indietro, erano le 3 di notte, si misero a tavolino con mio padre. Allora gli fece lui, mio fratello, mio padre, dice: papà, facciamo un patto, guarda, ti do la mano. Dice: se io dentro un anno non riesco a concludere niente, ti giuro che vado a lavorare in banca. Però adesso no, lasciami fare quello che voglio. Nel 1970, ancora giovanissimo, fa la sua apparizione al mitico Folk Studio, il locale divenuto la scuola dei cantautori romani, su tutti Francesco De Gregori e Antonello Venditti. E sono proprio i suoi amici Antonello Venditti e Ernesto Bassignano a raccontarlo. Io e Rino ci siamo conosciuti nel 1970, non ricordo il giorno esatto, ma credo che fece la sua apparizione al Folk Studio, dove c'eravamo già noi. Quando diciamo noi, eravamo io, De Gregori e Giorgio Locascio, ai quali noi, i famosi quattro ragazzi con la chitarra, si aggiunse Bassignano. Però credo che Bassignano arrivò nel 71. E fra questi ragazzi che gestivamo domenica pomeriggio, comparve questo tizio magro, un po'... con i denti rotti, si era in malinarnese con sta chitarrina Io facevo il tassista e quindi accompagnavo di sera questi quattro cialtroni più gli amici che mi facevo. L'ultimo di questi è stato Rino e quindi era anche l'ultimo che io portavo a casa, quindi abbiamo fatto centinaia di volte la strada che poi lui ha fatto da solo, purtroppo, quella tragica mattina. Seppe come entrarmi nel cuore subito, insomma, tant'è vero che Cesaroni, che lo aveva sentito suonare e zappare la chitarra, come diceva, non era del parere di farlo cantare neanche la domenica pomeriggio. E invece io, modestamente, avendo riscontrato delle cose molto carine, molto veraci anche in lui, aspettavo il momento in cui Giancarlo, il cosiddetto boss Cesaroni, andava magari in giro per Trastevere a bersi un whiskietto con De Gregori e lo buttavo sopra. E ricordo bene appunto queste due canzoni che lui faceva, che ha fatto per qualche domenica di seguito, una dedicata a un amico, guardate un po' che destino, a un amico che era, mi sembra avesse avuto un incidente in macchina, che era morto così, e l'altra dedicata a un ferroviere, a Gabito Molteni, ed è una canzone che mi è rimasta impressa, ancora adesso la canticchio delle volte. Era questa, c'era questa bellissima immagine di questo treno lungo il tavoliere che continuava a correre. Ecco, così l'ho conosciuto. Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Rino era una specie di fantasma che girava come un folletto per tutti i locali di Roma, cercando amici, cercando persone con cui dialogare, al quale far sentire le canzoni. Grazie a Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano approda nel mondo discografico della capitale, ma l'incontro decisivo è quello con Vincenzo Micocci, proprietario dell'IT, la casa discografica che ha già lanciato tra gli altri proprio Venditti e De Gregori. A pubblicare i primi quattro LP di Rino Gaetano sarà proprio Micocci. Rino Gaetano l'ho conosciuto tramite De Gregori e Venditti, Antonello Venditti. Lui ha cominciato ad andare in studio senza che io praticamente abbia parlato di lui. Dunque, il tempo è questo qui. Faceva il provinatore di tutti noi. Perché lui si è, come dire, era un po' protetto dalle due persone con le quali io lavoravo moltissimo. In quel momento avevamo lanciato appunto Venditti e De Gregori. Le spogliava! Questo è un paese naturalmente di navigatori, un paese di santi, di eroi, cioè, ma anche di cantautori. C'era Micocci e diceva: ma che ci facciamo di questo strano personaggio? Ho detto: guarda, fammici lavorare. Voglio dire, un artista serio, prima di arrivare veramente ad esprimersi, per farsi capire da tutti, per dire delle cose che siano vere, che siano sincere, che cui gli altri possano credere, voglio dire, bisogna fare un percorso, bisogna buttare molto, molto materiale. Era una specie di purgatorio, no? Non sapevi mai se avresti visto il paradiso oppure no, oppure se saresti andato all'inferno. Aida, la costituente, la democrazia. E ricordo un giorno che abbiamo prodotto il primo 45 giri con il nome di Cammamuris. Lui voleva cantare in inglese perché voleva camuffarsi in qualche modo. Tant'è vero che questa caratteristica l'ha seguita anche in seguito. Quando lui è debuttato ufficialmente, era sempre vestito in una maniera curiosa. E lui con la sta chitarra ci fece ascoltare danda danda danda danda danda danda danda. E ha cominciato a cantarci Il cielo è sempre più blu. E tutti entusiasti siamo andati da Vincenzo Micocci. Vince, guarda che questo aveva scritto un pezzettino che veramente può fungere, gli dicemmo. Micocci non era mica tanto convinto. Ma il cielo è sempre più blu. Però poi si lasciò convincere e ricordo benissimo che era estate e fece un 45 giri col cielo sempre più blu che nelle radio private di allora, specialmente Punto Radio, qui sui castelli romani, andò talmente bene che in pochi giorni vendette 45.000 copie. E Micocci impazzì. Ormai Rino Gaetano ha sfondato, è nella Serie A della discografia italiana, ma lui continua a comporre i testi e la musica che più gli piacciono. E del resto Gaetano è un artista dirompente che va fuori da ogni schema, ma che però non è mai casuale. Ma soprattutto è un talento libero, impossibile da etichettare. Ancora gli amici Antonello Venditti e Ernesto Bassignano a raccontarlo. Rino era un folletto, un clown, che aveva dentro radici così diverse dalle nostre che era quasi inesplicabile. Quindi quando lui ci faceva sentire canzoni a me, a De Gregori, per esempio, noi ci guardavamo con Francesco e dicevamo, ma sì, molto carino. E cercavamo comunque di collocarle. C'erano Baglioni e Cocciante da una parte, che erano i Melensi, c'era Battisti che nessuno di noi valutava granché, c'era chi con me si rifaceva alla Francia e a Tenco, chi si rifaceva da Dylan, e chi come Antonello si rifaceva invece a Elton John e alla musica inglese. Rino veramente è stato il più italiano, perché non si rifaceva a niente, a nessuno. Rino non aveva punti di riferimento. Ce n'aveva forse uno che ha fatto una tragica sorte come la sua, che ha avuto una tragedia, che era Alfredo Buscaglione. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola. Ricordo Paolo Conte, una volta ne parlai con Paolo Conte, e ci colpì moltissimo la sua canzone che si chiamava e cantava le canzoni. Era una canzone folk e cantava le canzoni. Ed è una transumanza, una strada piena di mucche, coi campanacci, i fischi dei pastori. E veramente in una canzone così gli riconosco anche un gran talento musicale. Vorremmo parlare delle tue canzoni, dei tuoi album, delle tue canzoni e soprattutto di questa ironia che c'è sempre nelle tue canzoni. Come mai? Ma guarda, l'ironia è un fatto che io prendo proprio così in giro, perché secondo me l'Italia è uno dei paesi più divertenti del mondo. Ma intanto dopo il successo di Sanremo, Gaetano è per tutti il cantante del nonsense. Un genere solo apparentemente leggero, come spiega Paolo Rossi. Non senso, come molte tecniche, generi, stili del popolare appaiono, diciamo, tranquillamente come una cazzata. Questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo, è un testo che forse non vuol dire niente. Ma poi questa cazzata diventa a volte, in certi periodi, dirompente e ti costringe ad avere più punti di vista su una cosa. Voi cantate, dite, parlate, che io vi piglio per tutti quanti. La canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Io... Ma forse perché la politica è in ribasso. No, questo è duro dire, affermare una cosa del genere. La seconda metà degli anni 70 non è un periodo facile per un artista fuori dagli schemi, irridente e scanzonatorio, come ricorda Vincenzo Mollica. Ma lui aveva una grande forza, che era l'ironia. E l'ironia non sempre veniva capita in quegli anni in cui molti, come dire, tutti erano molto settari in qualche modo. C'era uno strano integralismo che girava nelle varie, anche nella critica, anche tra gli artisti. Il cantautore più paradossale, ed è stato quello che, costruendo i paradossi più incredibili, raccontava poi con perfetto realismo proprio quello che era i suoi tempi, quello che era la sua vita, quello che erano i suoi amori. Se bene ho più soldi in tasca e donne ne ho troppe ormai, se bene il tuo cane... Eppure quei testi apparentemente spensierati che Rino Gaetano interpreta nascono e risuonano in un'Italia cupa e terrorizzata. L'Italia dura e incattivita degli anni di piombo. Ancora Antonello Venditti e Vincenzo Mollica. Erano gli anni di piombo, era il delitto Moro, un'Italia che cambiava, che stava sulle cose e andava nelle piazze. Abbassare con le canzoni senza patti e soluzioni, la castità. Dino andava nelle piazze a far divertire i bambini. La verginità. Uno spirito anarchico, uno che scriveva quello che gli passava per la testa senza rispondere a codici precisi, né sociali né politici. Rino sembra un disimpegnato e quella degli anni 70 è una stagione in cui quelli come lui non sono visti di buon occhio, ma in realtà le sue canzoni sono pungenti, grazie anche ad un'ironia molto sottile. Ed è proprio da uno scherzo che nasce uno dei brani più famosi di Rino, Non te regge più, titolo involontariamente suggerito dal suo amico Bruno Franceschelli. Rino era un ragazzo allegro, simpatico, divertente, con gli scherzi che poi Rino faceva a me. Una volta me ne fece uno un pochino più pesante del solito, e da quello scherzo venne fuori, visto che io mi ero esasperato quella sera, gli dissi: Rino, non te regge più, anzi non te reggo più. Dici, non te regge più. Cioè la canzone Non te regge più, che voglio dire è una canzone di grande divertimento anche, però aveva il coraggio delle sue azioni, non si trava mai indietro, nomi e cognomi per tutti, nei tempi in cui fare nomi e cognomi era molto difficile. Ma mi ricordo in particolare una sua partecipazione a un programma di Maurizio Costanzo in cui c'era Susanna Agnelli che lui aveva scritto Non te regge più, aveva messo dentro tutta la famiglia Agnelli. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla Causio, che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli. Non te regge più. E devo dire che con molto garbo e con molta classe Susanna Agnelli ascoltò la canzone di Rino Gaetano, anzi non lo contestò per niente. No, dicevo, ecco, lei si sente coinvolta in questo spaccato di italiana, lei si sente di far parte di essere una parte rappresentativa di questa Italietta, insieme ai suoi fratelli? Beh, una parte sì, temo di sì. Comunque aveva accettato l'ironia che Gaetano aveva fatto, che Rino aveva fatto di quella cosa. Però è Italietta, il concetto di Italietta, lei che ne pensa? No, o no? Beh, io credo che se fossi al posto suo farebbe la stessa canzone. E fu un momento televisivo molto, molto bello quello lì. Ma l'ironia, l'estro, l'ispirazione di Rino Gaetano si spengono tragicamente all'alba del 2 giugno dell'81. Il cantautore calabrese si schianta con la sua auto contro un camion a Roma. Aveva poco più di 30 anni. Poche ore dopo squilla il telefono della sua fidanzata Amelia Conte. Ricevevo una telefonata mattinata, ma non risposi io, per fortuna. Però io avevo fatto uno strano sogno quella notte. Avevo sognato una macchina, un incidente e poi una bara. Insomma, una cosa tristissima. Mi dissero che dovevamo vestirci, dovevamo andare a Roma perché Rino aveva avuto un incidente. Non lo so, forse avevo già capito, forse non volevo capire. Infatti non facevo altro che dire: ma perché non mi portate da Rino, perché non mi portate da Rino? Fino a che poi una mia amica carissima, Elena, me la ricorda ancora, mi prese da parte e me lo disse. Il cantante Rino Gaetano è morto a Roma questa mattina all'alba, come Fred Buscaglione. Stavamo per sposarci, proprio in quel mese ci saremmo dovuti sposare. Nel mondo della musica è passato come la primavera, velocissimo. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. I know religion's over. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a gamer, but I'm not the only one. I'm someday you in China, and the way. We'll be right back.